Venia da missa mano sfortunato, tu eses digno d'esisti, mamma mia. Lo tendendo in un mare di angustia, gusto vergine coro ha smeritato. Bene dammi San Manu e San Manu, bene San Manu e sfortunato, tu es il degno maru, es il degno, tu es il degno de este mamma mia, lo tendendo in un mare, lo tendendo in un mare de angustia, questo vergine coro, ma vergine coro, questo vergine coro, ma questo vergine coro, vergine coro, questo vergine coro, vergine coro, vergine coro, canta voltas pro me, io e pro me, canta voltas pro me, ma sono niente gurda candida, gurda candida, sono niente gurda candida, Maria, chi des presente, ma chi des presente, chi des presente a te, sotto luca di essa, cade essa, sotto luca di essa, sei amato, sotto luca di essa, io sono gurdo gamma, scaro un fiore, che abbandona ridente, ma ridente, che abbandona ridente sul giardino, prodi baghete ma, prodi baghete me ne possessore, prodi baghete me ne madre me ne, prodi baghete me ne possessore, veni d'un canon beva, veni d'un canon beva, se non beva, veni d'un canon beva, se in pibino, fate uno sogno, ma uno sogno, fate uno sogno, fritti sa destra, ma fritti sa destra, fritti sa destra, ma e ho so gudda gamma scaru fiore, che abbandona ridente sul giardino, pro di vaghe de mene possessore. Veni dunca non vivas in pivino, fatte di un sogno de amore, vritti sa destra s'amoro susino. E fritti sa destra s'amoro susino.